Vamo. Evviva! Prossimo pezzo è una vecchia hit dedicata a tutti i romanticoni e si intitola Avvicinati, Allontanati, Remix. Un omaggio nostro a Pappi Cosicato, olè. Bye.